Domenica scorsa mi ero permesso di dire che i contenuti dell'attuale dibattito politico erano veramente poca cosa nei confronti del grande dibattito del passato, no? Da un lato citavo il dibattito fra Lenin e la sinistra bolscevica, dall'altro citavo Buttiglione, Teodoro Bontempo, Berlusconi e Previti. In particolare me la prendevo con Buttiglione, che nonostante le credenziali di filosofo, più che al conteggio dei seggi in Parlamento non sembrava essere in grado di pensare. Detto e contraddetto. Non passano 24 ore che Buttiglione sembra voler far giustizia della mia ottusità. Lo vedo dibattere in TV e mi tocca arrendermi di fronte a due sue argomentazioni davvero stupefacenti. Per snocciolare la prima di queste argomentazioni, attinge Buttiglione al suo profondo sapere, quasi chiedendone scusa, come ben deve fare chi spezza il pane della scienza di fronte a chi questo pane, ahimè, deve deglutirsi. Sta parlando della sua necessità, come dice lui, di costruire il centro. E cita un libro di Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Dice per l'esattezza: c'è un libro, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, di Kuhn, beh, come fosse roba fresca fresca, mentre a dire il vero il libro è del 1962, vabbè. E ne riassume i contenuti un po' a modo suo. Dice che, allora, Kuhn ci insegnerebbe che la scienza non si sviluppa per accumulo lineare, perché ogni tanto subisce una sorta di crisi. Arriverebbe il momento in cui tutte le categorie vecchie non servono più. E qui la memoria di Buttiglione non è stata perfetta, eh? Kuhn in realtà parla della necessità improvvisa di nuovi paradigmi scientifici e non ha la pretesa di far piazza pulita di tutte le categorie scientifiche in uso, anche perché gli metterebbe male trovare un caso del genere nella storia della scienza. Ma la memoria di Buttiglione nel confondersi adempie ad una sua logica, obbedisce ad alcune esigenze, per così dire, interiori. Il discorso del filosofo da Partito Popolare, infatti, prosegue affermando che il nostro attuale momento politico assomiglia proprio ad uno di quei momenti di crisi della scienza di cui parla Kuhn. Un momento in cui, dunque, delle vecchie categorie di destra e di sinistra occorre liberarsi. Con il che, ovviamente, qualsiasi abbraccio suo con Fini e Berlusconi non è più il risultato di un suo spostamento a destra. Ovviamente, non c'è più la categoria, i suoi conti tornano. Ma non i nostri. Ma non era lui che voleva costruire il centro. E allora come mai nel momento di crisi sono vecchie e decadute le categorie di destra e di sinistra e non quella di centro, nei cui confronti, guarda caso, assumono il proprio significato le altre due? Messo alle strette nella contraddizione, il filosofo Buttiglione risponde che la categoria di centro è un po' meno vecchia delle altre due. Vabbè, il suo secondo argomento, che un altro argomento che pesca nel sapere profondo, è forse ancora più strabiliante del primo. Richiesto di dichiarare apertamente quale sia il quadro di valori cui lui fa politicamente riferimento, Buttiglione replica sorridendo che lui ha una certa diffidenza per i valori in politica, perché secondo lui dei valori ne dovrebbero parlare soltanto i vescovi e i filosofi. Nel progetto per una pace perpetua, un breve saggio pubblicato nel 1795, Kant parla di un articolo segreto che dovrebbe concludere quel trattato fra nazioni da lui ideato per garantire il bene supremo della pace. In questo articolo segreto si stabilisce che tutti gli stati si impegnano a prendere in considerazione le massime dei filosofi, perché secondo Kant la classe di costoro, per sua natura, è immune da spirito fazioso e incapace di cospirare, per cui non potrebbe mai venire sospettata di fare della propaganda. La beata ingenuità di Kant, vera o simulata che fosse, non giunge ad attribuire queste magiche virtù anche ai vescovi, si ferma ai filosofi in quanto classe, cercando di ignorare quanto tutti i filosofi di ogni tempo e di ogni paese si siano odiati innanzitutto fra loro e abbiano servito qualsiasi padrone pur di primeggiare. Kant non poteva però prevedere che della categoria sarebbe un giorno venuto a far parte tal Buttiglione in una delle sue due vesti, filosofo e politico, con la licenza, secondo lui, da filosofo di dettare i valori e da politico di fregarsene immediatamente dopo.